tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Incontrerò, ti rivedrò, tutto è possibile, anche se poi lo sai anche tu, perdersi è facile, cercarsi sempre. Maledizione, è così. Mettici poi le distanze, la pigrizia, le assenze, le scuse che vuoi. Se il desiderio si spegne, così si muore un po'. La sincronia è un'utopia, pura aritmetica, fatalità, trovarsi lì, quella domenica, in quel momento. Né prima né poi, se perdi l'appuntamento, un'altra occasione magari non hai. Se nascerai fuori tempo, tutto in ritardo vivrai. Gente che schiva la gente, non è mai presente, né ora né mai. Che sia felicità, ci domandiamo noi, nel dubbio siamo qua, involontari eroi, ci convinciamo sia il giorno, il posto e il mondo giusto. Mentiamo per questo, si copera così. Un numero anche tu, è un rischio la poesia, un freno e niente più. Comunque vada poi, ti sei impegnato e hai dato tanto, e mai fuori tempo, più stanco ma qui. Resterò dentro di te, momento magico, prima di noi, dopo di noi, un vento gelido, pazzo e incosciente, a lasciarti andare via. Anche l'amore migliora invecchiando, si fida di più. Che siamo già fuori tempo, io non ci credo, perché è stato proprio quel tempo ad accendere ancora la voglia di te. Ci mescoliamo ormai, un ordine non c'è, in questa lotteria chi vince prende te. Ma poi la crudeltà purtroppo non è fuori tempo, un vizio quel tradimento, io ti riprenderò, ho un fiuto che non sai, così ostinato io, ti trovo prima o poi e ti dimostrerò che ci si può salvare in tempo. Non mi ritiro, rilancio. Così.

Está a ouvir Ouro e Platina. Esqueça os meus males. Leva-me assim pela mão, lá pelos romances da serra. Tira-me tudo a cidade, tira-me tudo a cidade, que me entristece a terra. Pela mão, lá pelos romances da serra, tira-me tudo a cidade, tira-me tudo a cidade, que me entristece a terra. Ser para ti Jacob a Raquel. Quero morrer a teus pés, quero morrer a teus pés, como o teu cão mais fiel. Mostra-me o trilho florido que ao teu afeto conduz. Dá-me o teu braço amorável, dá-me o teu braço amorável. Sou um ceguinho sem luz. Mostra-me o trilho florido que ao teu afeto conduz. Dá-me o teu braço amorável, dá-me o teu braço amorável. Sou um ceguinho sem luz. Hey Jude, refrain. Don't cast take a side.